adesso? Ecco, sì, è venuto il puntino rosso, scusatevi. appunto, dicevo, l'anno scorso il ciclo era più anche su temi, ma chiamava già in causa alcuni dei classici che sono stati ripresi oggi. Io non credo che ci sia proprio bisogno di presentare per Hannah Arendt due autori come Alessandro Dal Lago e Elena Pulcini. Elena Pulcini già la conoscete, Alessandro Dal Lago anche, ma sicuramente uno dei pensatori che tra i primi ha introdotto anche certi aspetti meno conosciuti di Hannah Arendt, e in particolare poi ha lavorato proprio su Vita Attiva. Quindi siamo anche molto curiosi di sentire che cosa ha da dirci, in aggiunta a quello che diciamo che già conosciamo attraverso i suoi scritti, o a partire proprio anche da riflessioni sul presente. Io stessa vi dirò, ho pensato di fare alcune osservazioni quando facciamo la seconda parte, a proposito di un saggio di un giurista sull'articolo 4 che ha chiamato sul lavoro, in cui ha chiamato in causa appunto Hannah Arendt. Quindi può essere anche interessante questa aggiunta. Insomma, scusate di nuovo il ritardo e do la parola a Alessandro Dal Lago. Questo lo spengo. Sì. Sì, funziona. Allora, buongiorno a tutti. Non ho un titolo per la scuola. Quanto dura il noi? 45 a testa? Poverini. Sventurati. 45 cada uno, vabbè. Scapperei subito. Allora, dicevo, non ho un titolo preciso perché mi è stato chiesto di ritornare su Arendt, in particolare su questo testo che in qualche misura è un po', insomma, il testo capitale o considerato tale di Hannah Arendt. Allora, io, non sapendo poi cosa dirà Elena dopo, cerco di fare una presentazione generale, di parlare un po' anche del contesto della ricezione, perché forse poi, oltre che di alcuni concetti fondamentali, perché è uno degli aspetti più interessanti, cioè come è possibile quello che sto per dire, cioè che una pensatrice che era già nota, notissima, almeno nella cultura di lingua inglese, già subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per il suo saggio sul totalitarismo, ed era conosciuta nella cultura di lingua tedesca per i suoi studi sulla letteratura, eccetera, eccetera, invece è rimasta pressoché sconosciuta in Italia fino ai primi anni 60, anzi molto di più. Diciamo, il Vita Attiva fu pubblicato, se non erro, da Bompiani nel 1964, ma per tutti gli anni 60 e 70, per una serie di motivi che ora dico, se ne è parlato pochissimo. Quali erano i motivi? Primo, una fama, diciamo così, di pensatrice di destra conservatrice, che non era, come cercherò di dire dopo, in particolare perché Hannah Arendt aveva partecipato giusto in quegli anni ad alcune imprese di analisi del totalitarismo organizzate da Kissinger, che non era esattamente un biglietto da visita in Italia per la cultura italiana particolarmente gradevole. In più, negli anni 60, nei primi anni 60, nel 62 mi pare, Hannah Arendt aveva dato alle stampe questo libro che poi in Italia era il più famoso, ma su un argomento che ha poco a che fare, o perlomeno ha a che fare solo indirettamente con il tema di oggi, cioè il famoso reportage su Eichmann a Gerusalemme. Il reportage su Eichmann a Gerusalemme era, come si direbbe in inglese, infamous, perché famigerato, perché provocò una serie di reazioni molto violente nel mondo ebraico americano e non solo americano. Perché, di cosa si trattava? Lo dico molto rapidamente. Si trattava di un reportage del processo, sul processo Eichmann, in cui Hannah Arendt sosteneva due tesi fondamentalmente, no? Una, li riporto proprio alle estreme conseguenze. Una, la prima tesi metteva in discussione la legittimità di un processo su fatti talmente enormi e mostruosi che sembrarono difficilmente riportabili alla sfera giuridica, cioè lo sterminio. In qualunque momento Hannah Arendt ha sempre detto che lei personalmente avrebbe, in conversazioni private, avrebbe giustiziato Eichmann al volo, ma il problema non era quello, il problema era se era il caso di, che senso aveva utilizzare le finzioni, in larga parte le convenzioni giuridiche, per delitti così incommensurabili. Questa era la prima tesi, e poi metteva in discussione tutta una serie di presupposti e anche smontava molto anche il lavoro del procuratore di Gerusalemme. La seconda tesi, quella che proprio ha innescato le polemiche più violente, era contenuta in una serie di capitoli su lo sterminio, e Hannah Arendt ha tirato fuori fondamentalmente una cosa che non bisognava tirare fuori, cioè il ruolo dei consigli ebraici, delle comunità ebraiche nella collaborazione con i nazisti. Mi fermo qui, voglio dire, il tema è talmente ampio e evade un po' da quello di cui parliamo oggi, per cui non ne parlo, se non per dire che questo libro ha suscitato delle reazioni anche, alcuni hanno parlato per esempio di classico, di tipico odio di sé ebraico, nel caso di Hannah Arendt, diciamo l'ebraismo più conservatore ha attaccato violentemente le sue tesi, mentre invece alcuni scrittori, anche tipo come Bruno Bettelheim, che era riuscito a scampare i campi di sterminio, invece l'hanno difesa. Insomma, la questione è molto ampia, ma fondamentalmente Hannah Arendt era famosa per questo. Quando infatti uscì nel 1964 The Human Condition, tradotto qui per motivi ovvi Vita Activa, la condizione umana, il cui suo libro è passato largamente inosservato, finché all'inizio degli anni Ottanta è tornato invece in auge, si potrebbe dire, per una serie di motivi, cioè per una serie di correnti filosofiche che in qualche misura criticavano, diciamo, la filosofia mainstream. Quali erano queste correnti filosofiche? Alcune in Germania, altre nei paesi di lingua inglese. La prima era allora un'etichetta che oggi nessuno usa più, era la ricostruzione della filosofia pratica, cioè la ricostruzione di una filosofia dell'azione, si potrebbe dire, in un'epoca in cui le élite intellettuali europee e anche quelle italiane si distaccavano un po' dal marxismo più di scuola, no? Tanto più dogmatico, eccetera. Quindi la ricostruzione. Il secondo tema era la ricostruzione del giudizio politico. Quindi in qualche misura una teoria che, pur ancorandosi alla tradizione filosofica, metteva soprattutto l'accento sulle parti che meno importanti per la filosofia mainstream, che erano appunto la terza, tanto per capirci, la terza critica di Kant, e quindi il discorso sul giudizio, sul giudicare. E altre ancora, poi il ritorno, non il ritorno, vuol dire la scoperta della filosofia ebraica, a cui Hannah Arendt, devo dire, non ha dato secondo me grandi contributi, ma insomma a cui era associata per un certo periodo. Tutto questo ha fatto sì che improvvisamente alla fine degli anni Ottanta si rileggesse da vari punti di vista il pensiero orientale e si tornasse sulla sua opera capitale, appunto, che era Vita Attiva. Io mi ricordo che nei primi anni Ottanta ero nella redazione del Mulino Rivista, e che era diretta allora da professore molto simpatico a cui volevo molto bene, anche se la pensava completamente diversa da me, che era Niccolò Matteucci, il quale disse: perché non facciamo un numero del Mulino su il ritorno della filosofia greca? Si fece questo numero in cui scrisse un pezzo su Hannah Arendt, altri due, uno su Leo Strauss e un altro su Erik Voegelin, due pensatori che tra l'altro Hannah Arendt detestava cordialmente, detto tra noi, ma comunque tutto questo era sotto l'etichetta del ritorniamo alla Grecia, quindi aveva a che fare con le cose. Vi ricordo che in quell'epoca uscivano le riviste su Atene e Gerusalemme, cosa c'è all'origine della modernità. Insomma, il libro di Hannah Arendt è capitato in questo momento critico di riscoperta di tradizioni che erano rimaste fino a quel momento in ombra, perlomeno nel mondo intellettuale e filosofico europeo, diciamo continentale. Questo per quanto riguarda, dopo è cambiato tutto, nel giro di diciamo una decina d'anni, forse anche meno, insomma, fino alla fine degli anni Ottanta, ormai il peso di Arendt, il ruolo di Arendt nella cultura europea e occidentale americana ormai era sodato. uscivano libri di ogni tipo e poi sono iniziate ovviamente, giustamente, le letture che hanno messo in luce vari aspetti, cioè alcuni come per esempio il sottoscritto il rapporto con la filosofia di Heidegger e quindi il rapporto tra, diciamo, critica della metafisica e politica. Allora mi interessa, adesso mi interessa un po' meno, insomma, allora invece mi sembrava di enorme importanza. Altri su altre questioni, il problema della legittimazione politica, la democrazia dal basso, insomma. Poi il pensiero femminile che ha avuto un enorme impulso, almeno per quanto riguarda Arendt, giusto in quegli anni, eccetera, eccetera. Va bene, questo è un po' il contesto, no? Poi le cose sono, stranamente, mi sembra di capire che ancora oggi, nonostante siano passati più di 30 anni dalla riscoperta e più di 50 dalla pubblicazione, il pensiero di Arendt è ancora, non dico di moda, ma insomma uno dei riferimenti capitali della teoria contemporanea. Allora, questo era, insomma, diciamo, alcune considerazioni sul contesto e sulla fortuna. Adesso cerco di entrare un po' nel merito. Allora, la prima cosa che va detto è che Arendt, dal punto di vista, diciamo, della sua storia di pensatrice, appartiene a una tradizione che è quella che gli inglesi e gli americani chiamerebbero la tradizione della filosofia continentale. Nel corso della sua vita intellettuale ha studiato con Heidegger, con Husserl, con Husserl, con Heidegger soprattutto, con Jaspers, ha incrociato il pensiero di Bultmann e quindi questa grande stagione della filosofia, in realtà tra 8 e 9, direi, della svolta del secolo fino al nazismo e oltre, come nel caso di Heidegger, che costituisce un po' dei nuclei, no? Pensate soltanto per esempio alle disletture che hanno portato da questi autori all'esistenzialismo, a Sartre, eccetera. Era erede di questa, si è laureata con Heidegger con una tesi su Agostino, quindi apparteneva a quella grande stagione della filosofia che ha cominciato a mettere in discussione già alla fine dell'Ottocento lo scientismo, Husserl in particolare, e quindi le obiettivazioni della filosofia scientistica, oppure come nel caso di Heidegger e di Jaspers, ha messo al centro della riflessione la questione dell'esistenza. Ora, so che se un heideggeriano fosse presente direbbe che io bestemmio parlando di Heidegger in termini di esistenza, perché voi sapete che il Dasein, il concetto fondamentale di Heidegger, è stato impropriamente tradotto con esistenza. Però quello che volevo dire è che in sostanza, nonostante le differenti scuole e le differenti terminologie, quello che questi pensatori mettevano, soprattutto Heidegger e Jaspers e altri ancora come Scheler e così via, al centro della loro riflessione era quella che Scheler avrebbe chiamato la posizione dell'uomo nel mondo, no? In una stagione, in un momento soprattutto, in cui la filosofia ha superato la crisi di fine secolo e quindi il rovesciamento di valori. Tutte queste riflessioni, come dire, sottintendevano la lettura di Nietzsche e così via. Quindi un tentativo di superare sul piano teoretico la crisi, no? La crisi, insomma, la lacerazione di punti di vista, il conflitto tra punti di vista, che è una delle idee banali, ma insomma il concetto di crisi è un po' quello lì, proponendo invece un nuovo modo di guardare alla posizione umana, appunto quella che impropriamente viene chiamata esistenza, da cui esistenzialismo, eccetera. Questo lo dico perché Arendt, che non ha mai voluto essere definita filosofo di professione, anzi in parecchi saggi ha criticato l'atteggiamento squisitamente teoretico come fondamentalmente impolitico e quindi contrario, diciamo, all'interesse comune, no? E quindi al riconoscimento del carattere politico dell'esistenza. Arendt tuttavia si situa in questo solco e, se vogliamo usare uno slogan un po' banale ma che rende un po' l'idea, io un po' invecchiando tendo a banalizzare tutto quello che dico, è fondamentalmente a lei interessava la dimensione politica dell'esistenza, mentre negli altri autori come Heidegger e Jaspers il centro dell'interesse era sull'esistenza nella storia. In fondo voi, vi ricordo che Essere tempo, che se non ero uscì nel 1926, prendeva lo spunto da una critica dello storicismo, dalla posizione della storia e così via, e quindi fondamentalmente da un rapporto con la riflessione teologica, non soprattutto cristiana, In Arendt, forse perché era ebrea, tutto questo interessa meno. Quello che interessa soprattutto invece è la dimensione politica dell'esistenza, al punto tale che chi per Arendt non pone al centro dei suoi interessi questo aspetto, fondamentalmente è uno che si occupa di teorie e quindi un essere fuori del mondo. C'è una critica fortissima alla filosofia. A me viene in mente, lei non lo cita, ma un saggettino sugli ultimi giorni di Immanuel Kant, scritto da uno scrittore inglese, che fa vedere il grande pensatore, fu pubblicato da Delphi, il grande pensatore ormai con la sua mente, il suo cervello che si sgretola, e quindi questa sorta di ingenuità. Per Hannah Arendt i filosofi erano al tempo stesso quelli capaci di praticare il Tomazein, cioè la curiosità nei confronti del mondo, perché una cosa è invece in nulla, no? Che è la famosa domanda filosofica. Contemporaneamente questa domanda veniva in qualche modo tradita, e quindi restando soltanto in una dimensione teoretica. Invece per Arendt, e questo è il punto secondo me di rottura interessante, voglio ancora oggi, no? Che rappresenta il motivo per cui il suo pensiero è così interessante, per Arendt invece la dimensione fondamentale è quella politica. Cosa si intende con politica? Questo mi pare, noi siamo in una scuola di politica, quindi questa fosse una domanda che può essere interessante. Cosa intendeva Arendt per politica? Intendeva due cose fondamentali che non coincidono con altre stagioni del pensiero filosofico politico del Novecento. Cioè Arendt non interessava la politica come riflessione, o perlomeno non in prima battuta, come riflessione sullo Stato, come nella grande tradizione occidentale, che deriva da Hobbes, né la politica come polemologia, cioè come dimensione del conflitto, come invece nell'altra grande tradizione che culmina in Schmitt. Per lei la politica era fondamentalmente legata alla posizione di chi. Qui la questione diventa molto complicata, perché venendo fuori dalla sua tradizione filosofica, né la parola individuo né la parola soggetto sarebbero corrette. Io vi ricordo che nella tradizione filosofica arendtiana, in particolare in Heidegger, c'è sia una critica del soggetto come istanza filosofica centrale nella filosofia, sia una critica dell'individuo, nel senso che per Heidegger paradossalmente l'essere umano è individuo, cioè è legato in tanti altri modi agli altri. E invece quando Arendt parla di posizione dell'essere umano nel mondo e quindi come visione politica, intende non intende né il soggetto né l'individuo, ma l'essere, l'esistenza come collegata ad altre esistenze. Né potrebbe essere altrimenti per lei, cioè quello che si fa nel mondo non potrebbe essere fatto che in relazione ad altri. Questa è nient'altro che la politica per Arendt. Quindi né lo Stato né il conflitto, benché ovviamente lei non ignorasse queste due dimensioni, sarebbe stato insensato altrimenti, ma il punto di partenza per lei è la condizione in fondo. Infatti si chiama il titolo originale del libro The Human Condition, si riferisce proprio a questo fatto primordiale. Apro una delle mie innumerevoli parentesi. Questo qui è tipico, questo interesse per questa dimensione relazionale è tipica di altri allievi di Heidegger come Karl Löwit, no? Löwit scrisse un libro molto interessante, recentemente pubblicato qualche anno fa in italiano, che si chiamava L'individuo nel ruolo del prossimo, del Mitmensch, cioè dell'essere con gli altri, in cui fondamentalmente, secondo questa posizione, benché Heidegger avesse colto il problema del Dasein, cioè dell'esserci qui nel mondo come questione essenziale, era rimasto, come dire, chiuso in una sorta di solipsismo, cioè di riflessione che non teneva conto del carattere fondativo della presenza dell'altro. Contemporaneamente a questa relazionalità non aveva, secondo me non hanno a che fare, se si legge attentamente Arendt, con nessun discorso tipico delle scienze sociali, cioè non ha a che fare con il comportamento umano. Quando noi parliamo di, voglio dire, io che sono, voi sapete che nessuno è perfetto, io in particolare sono ufficialmente un sociologo, quando i sociologi entrano in scena parlano di relazione umana, di comportamento, arrivano i grandi numeri, gli aggregati, queste cose, no? Cose che, come dire, per Arendt erano orripilanti, lo dico subito, quindi se ne teneva lontanissima. A lei interessava la relazione come quel momento critico in cui si entra in rapporto dialogico con gli altri, ma non dialogico nel senso di una filosofia del dialogo, in un rapporto, si potrebbe dire, dialettico, no? Quindi di microrelazione problematica con gli altri. Per lei la politica si situa esattamente in questo punto. Qual è il modello del tutto atemporale e abbastanza frainteso di Arendt per questa posizione? È fondamentalmente il modello greco, la polis. Questo ha dato origine a dei fraintendimenti clamorosi, a partire proprio dalla riscoperta, dalla presunta riscoperta della filosofia greca, perché Arendt non interessava affatto il modello, diciamo, classico della politica greca, quello, il modello che comincia a affermarsi con la cacciata a Atene intorno al V secolo a.C., con la cacciata del dittatore e dei tiranni, e quindi la democrazia che culmina poi nella posizione di Pericle. A lei questo momento storico irripetibile, tra parentesi la grande nuova storiografia greca, sto pensando a Christian Meyer, prende molto spunto da Arendt in questo momento della storia umana in cui improvvisamente sullo sfondo di regimi dispotici nasce la democrazia, eccetera, per lei è irripetibile, un miracolo, la parola miracolo è molto frequente nel suo pensiero. E che cosa costituiva questo miracolo? Che cosa era costituito un miracolo? Era fondamentalmente dalla pronunciare grandi parole in vista di grandi azioni sulla scena pubblica. Per lei la politica era, in vita attiva si trovano continui riferimenti al rapporto che esiste tra, diciamo, il mondo eroico, il mondo di Omero e il mondo di Pericle, cioè il mondo di Omero con gli eroi che si battono individualmente in battaglia, eccetera, e il mondo di Pericle in cui, benché la polis sia diventata una cosa completamente diversa dal mondo eroico di 700-800 anni prima, però in qualche modo resta questa idea della grandezza, del mostrarsi in pubblico, no? Del pronunciare grandi parole come, e quindi fondamentalmente dell'onore, cioè, tra l'altro questa rivisitazione, come dire, del parlare in pubblico come cuore della politica, eccetera, l'ha fatta accusare da molti, secondo me un po' scioccamente, di maschilismo, no? Dice, ma come tu ti rifai un modello, il modello dell'eroismo, che è un modello fondamentalmente maschile. In realtà l'eroismo di cui parla lei è quello del mostrarsi, dell'apparire in pubblico, no? Tutto questo libro è giocato e costruito sull'idea di apparire e soprattutto sulla gratuità dell'apparire. Questo è un punto essenziale che, su cui forse merita, che merita se... A che punto sono arrivato, scusa, della... Quindi, quanto... 20 minuti. Perfetto. Questo punto merita una piccola riflessione perché è l'aspetto al tempo stesso estremamente innovativo, anche questo frainteso, del pensiero di Arendt. Per Arendt, come per la tradizione filosofica da cui veniva, e in particolare per il suo vero maestro, in un certo senso, è Agostino, tutte le cose umane sono destinate a perire, quindi in un certo senso ovviamente le istituzioni umane, non solo le vite individuali, ma le istituzioni periscono, e quindi, come quando, non mi ricordo dove, Agostino parla del mondo umano che devorans tempora devoratus temporibus, cioè che divora il tempo ed è mangiato dal tempo, no? E questo qui è lo sfondo su cui che cosa riscatta l'umanità da questa rovina che, come dire, incombe per definizione sulle sue conquiste, sulle sue azioni. La riscatta per i credenti ovviamente l'amore in Dio, infatti in Arendt la prima tesi di Arendt è una tesi sul concetto di amore di Sant'Agostino, in cui si viene analizzato questo punto. Per i non credenti l'unico modo per riscattarsi da questo è appunto, come dire, lasciare una traccia di sé nel mondo, che paradossalmente però non è una traccia materiale. In Arendt c'è un disprezzo quasi eccessivo, secondo me, nei confronti dell'opera, quindi del lavoro, dell'arte, eccetera. Una traccia nella memoria degli altri. Fondamentalmente l'uomo, l'animale politico, il vero animale politico è quello che agisce gratuitamente, nel senso dimostrando con ciò un rapporto molto forte tra gratuità e grazia, no? E quindi agisce per grazia, in qualche modo che ha in mente qualcosa che appunto è per definizione gratuito, e contemporaneamente però questa gratuità non può che esprimersi nella memoria degli altri, cioè si agisce. Paradossalmente, anche in questo appare evidentemente un influsso di Heidegger, si agisce in vista della morte, ma per superare la morte nella memoria degli altri. Questo è un po' Quindi in questo c'è un eroismo, apparentemente un eroismo, come dire, fuori tempo massimo. In realtà, questo invece è un aspetto che a me piace moltissimo, interessa molto, e poi vi dirò che ha delle bizzarre anche conseguenze sul piano dell'azione politica. In realtà questa gratuità e quindi questo eroismo viene utilizzato da Narmen per definire la condizione di chi? Dell'eroe o del capo politico, neanche per idea, del paria, cioè dell'emarginato. L'emarginato in qualche misura è per Arendt, le figure che lui pensa erano alcune figure come Bernard Lazare, un teorico ebreo del socialismo francese, l'omino di Chaplin. Purtroppo Arendt non parla mai di Buster Keaton, anch'io personalmente, come dire, preferisco a Chaplin. Vabbè, ma questo è un altro discorso, però insomma questi omini, questi perdenti stravaganti della vita di tutti i giorni, era Rahel Varnhagen, quella figura centrale nell'illuminismo tedesco, emarginata di fatto in quanto donna, e cioè tutte queste figure che non avevano accesso al momento in cui lei scriveva, in cui elaborava la sua teoria, non avevano alcun accesso alla vita pubblica, pur meritandola integralmente per le opere, per quello che facevano, e quindi erano in grado di accedere a questo ruolo di esistenza politica, e il mondo glielo impediva. In questo io trovo francamente che il pensiero di Arendt è un pensiero straordinariamente libertario, non ha niente a che fare con la destra, o semmai il pensiero di Arendt ha a che fare spesso con un certo tradizionalismo, cioè con un certo legame con la tradizione culturale, ma niente a che fare con quello. Quindi con ciò non si nega, io non ho mai trovato in nessuna sua opera alcuna negazione di quegli aspetti chiave della teoria politica, che sono l'interesse e il potere, se volete. No? È ora ovvio per chi veniva in questa tradizione che i primi motori dell'agire umano hanno a che fare con gli interessi e soprattutto con la propria posizione nella sfera degli interessi, cioè col potere. Il problema è che tutto questo veniva dato per scontato perché... ritornando sempre sul punto che la rovina incombe sugli affari umani, né la difesa, voglio dire, ci sarà un momento in cui non sentiremo, in cui Trump sarà soltanto una nota a piedi pagina, no? Noi non ci saremo, immagino, ma saremo una nota a piedi pagina, nessuno ricorderà Trump se non per questo bizzarro momento in cui la democrazia americana, in cui Arendt, ahimè, sperava tanto, voglio dire, è entrata in crisi. Verranno ricordate altre cose probabilmente, no? Verranno ricordati alcuni momenti della storia, della depressiva storia contemporanea, invece in cui gli interessi venivano in qualche modo dimenticati o trascesi in nome di qualche altra cosa. La rovina incombe su tutto, per cui per Arendt i paria, cioè gli emarginati, le persone, non so, in inglese si potrebbe dire gli underdogs, no? Tutti quelli che mantengono una posizione di opposizione oggettiva di fatto contro il potere, aspiravano a una posizione nel mondo. Ora io la faccio breve perché qui sarebbe impossibile render conto in pochi decine di minuti di un libro strano, perché molto intrecciato, molto nella tradizione. Poi Arendt scriveva in inglese, ma il suo modo di suo argomentare, il suo periodare era classicamente tedesco, quindi anche un libro abbastanza non semplicissimo da seguire, no? Quindi io inevitabilmente non parlerò di tante questioni che hanno a che fare con il suo pensiero, però per me questo è il cuore del pensiero di Arendt, e così come le conseguenze che se ne possono trarre, cioè se c'è questo elemento di fuggevolezza, no? E quindi di tentativo di contrastare la rovina del tempo attraverso l'azione in pubblico e nella memoria, è evidente che per Arendt è molto più importante qui l'apparenza che la realtà, in un certo senso, cioè l'apparire nel senso di comparire in pubblico, per Arendt è importantissimo. Dietro questo se uno proprio, adesso sono operazioni che non so se si fanno ancora, che mi interessano abbastanza poco, ma voglio dire, un tempo uno poteva rintracciare tutta la genealogia di questo discorso, quindi a partire dal Kant, da Kant, quindi dalla sua lettura critica della dialettica conoscitiva, fino a Schopenhauer, a Nietzsche, eccetera. C'è tutto questo mondo di un po' di critica, di critica autocritica del pensiero filosofico. Però per Arendt l'apparire cioè il presentarsi in pubblico, eccetera, era il momento in cui si realizzava questa dimensione. Quindi elogio dell'apparenza contro invece elogio della materialità storica, e da questo punto di vista, proprio perché la fuggevolezza dell'azione si realizza in questi momenti, oddio, uno volendo potrebbe trovare, ma qui ci disperderemo, anche Echi Gentiliani, ma non ne voglio parlare di tutta questa cosa, questo elogio dell'apparenza in che cosa si realizza in una fondamentale critica del mondo moderno come mondo del fare rispetto all'agire. Il tema centrale di Arendt è l'agire, non è il fare. Le tre definizioni, lo zoon politikon di Aristotele, l'homo socialis di San Tommaso e homo faber, alle quattro definizioni animal laborans, sono fondamentalmente quattro definizioni che mettono l'accento su quella che lei chiamava la degradazione dell'agire politico, cioè dalla politica come apparire fino al comportamento, fino al fare. Anche queste nozioni sono state ampiamente criticate come poco realistiche, ma di fatto non erano definizioni storiche, erano semplicemente modelli, erano idealtipi, cioè tipi ideali che servivano come modelli controfattuali per descrivere altre cose. Quindi c'è una sorta di filosofia dell'atto, parliamoci chiaro, in Hannah Arendt, che appunto confina con altre tendenze della filosofia del Novecento, ma c'è questo momento fondamentale che io chiamo estatico, e quindi cioè mettere l'accento sul carattere di estasi dell'azione, e quindi sul momento in cui tutto sembra, Arendt interessavano moltissimo questi momenti, quello in cui l'ordine tradizionale si blocca improvvisamente o viene criticato, non funziona più, e nasce il nuovo, la novità, e quindi la posizione di chi fa bambini, la natalità, senza alcun riferimento alla Chiesa, agli insegnamenti della Chiesa, sono elementi centrali, no? Proprio perché così come chi appare e agisce in pubblico dà inizio a qualcosa di nuovo, così il momento alto dell'umanità per Arendt, proprio in questa catena che è sempre, lo ricordo, sovrastata dalla rovina del tempo, è fondamentalmente il dar vita ad altro. E per Arendt questo altro non è mai l'opera concreta, l'opera materiale, ma è invece l'azione, il pensiero, eccetera, eccetera, eccetera. A partire da questo, in Arendt c'è una critica forte, c'è un apprezzamento molto forte del momento rivoluzionario, perché Arendt è una pensatrice della rivoluzione, proprio a partire dalla rivoluzione. Qui faccio l'ultima delle mie parentesi. Voi sapete bene come il concetto di rivoluzione a partire dagli studi di Grivank è stato molto discusso, cioè il concetto di rivoluzione nella teoria politica del Novecento è apparso come in realtà un molto debitore della filosofia politica medievale, in particolare la teoria politica moderna, debitrice del concetto di rotazione, no? Che in realtà Arendt non interessa tanto l'elemento rotatorio, cioè la rivoluzione come restituzione del vero ordine, no? Che è tipico di un certo pensiero politico, poi qui si potrebbero aprire interessanti, secondo me, canali di comunicazione col pensiero di Foucault, ma questo un altro, o magari dopo nel dibattito. Arendt interessava invece il momento rivoluzionario come momento del cominciamento, del dar vita a qualcosa di nuovo. E quello che analizza sia nella rivoluzione francese sia in quella americana, anche questo in un testo abbastanza discutibile tutto sommato come sulla rivoluzione, è come questo momento ha dato vita ad altro, come cioè dalla posizione del rivoluzionario che agiva contro l'ordine antico, eccetera, si è passato invece alla rivoluzione come cura e come protezione sociale, che implicava per Arendt anche un dislivello, no? Tra chi offre la cura e chi l'accetta o la subisce. La cosa interessante in tutta questa vicenda è proprio che per Arendt il momento rivoluzionario, il momento inaugurale, altra parentesi, trattasi evidentemente di un pensiero molto romantico, no? Come voi capite bene, questo momento inaugurale per Arendt non si esaurisce nella rivoluzione francese, continua almeno inizialmente nelle rivoluzioni sociali del XIX secolo, nei consigli degli operai della prima fase della rivoluzione russa e della rivoluzione tedesca. Io tra l'altro vi ricordo che Arendt è stata sposata con due personaggi estremamente interessanti che descrivono un po' lo spettro della cultura politica di sinistra tedesca. Il primo era Günther Anders, che ha scritto delle cose di straordinario interesse sulla violenza e la guerra nel XX secolo. L'altro era Heinrich Blücher, che era un ex spartachista, cioè uno che aveva partecipato alla rivoluzione spartachista che portò alla morte di Rosa Luxemburg e Liebknecht. E lei, pur non appartenendo, non è mai stata comunista, però si capisce benissimo come il rapporto con questi due personaggi influisce nel suo pensiero. Ma per lei la questione va avanti, cioè la rivoluzione dei consigli e poi la rivolta ungherese del 1956 e paradossalmente il maggio francese. Erano tutti momenti in cui, nonostante gli errori ideologici, le deviazioni settarie o quello che vi pare, comunque c'era sempre l'idea, che io, ecco, questo per me è un aspetto fondamentale, c'era sempre l'idea che sono gli attori che creano il mondo politico o che dovrebbero creare il mondo politico e non invece esserne governati e esserne prodotti. Questo è il pensiero che io ritengo rigorosamente anarchico, in senso stretto, o se volete col trattino, cioè perché vi si manifesta sia la differenza rispetto alla tradizione. Noi diamo per scontato tutto quando noi agiamo politicamente, non so chi agisce politicamente, ma per lo più i nostri concittadini agiscono quando mettono il voto nell'urna. Oggi c'è chi sostiene che invece si agirebbe facendo un click, ma insomma, se questa è la politica, alla politica è un'altra cosa. Cioè, per lei era questa proiezione nel mondo, questo apparire con tutti i rischi dell'apparire, del manifestarsi in pubblico, che non è esattamente quel gesto un po' pavloviano che si manifesta sia alle elezioni a parte questo, cioè c'è un'idea proprio che, contrariamente alla tradizione principale della modernità, che si basa sulla esaltazione da Hobbes in poi dell'idea dello Stato come l'organo supremo che impedisce il conflitto, in Arendt c'è chiaramente una propensione per il conflitto, per il conflitto regolato, voglio dire, per il conflitto che avviene in uno spazio pubblico, secondo, per il conflitto che assomiglia molto all'idea di gioco. Cioè un gioco, se voi traducete tutto quello che sto dicendo così un po' grossolanamente, potrebbero dire le cose di cui ho parlato prima: l'apparenza, l'apparire in pubblico, la gratuità. Apro una parentesi, ho avuto una delle mie vite precedenti è stata il giocatore d'azzardo compulsivo, e vi assicuro che un giocatore d'azzardo non gioca mai per vincere, più o meno gioca sempre, se gli va bene gioca per non perdere, no? Quindi, però il gioco realizza molto di questo, perché il giocatore sa che voglio dire incombe su di lui il fallimento, ma al tempo stesso però continua, come la rovina dei tempi di Arendt, però continua a giocare, perché il vero momento del gioco è trovarsi di fronte faccia a faccia con l'altro giocatore o col dealer o quello che vi pare. In Arendt sono queste strane uscite, secondo me, queste tendenze che alcune avrebbero chiamato irrazionali, appunto, a privilegiare il momento della gratuità su altri. Quindi mi avvicino un po' alle conclusioni, alla sintesi. Naturalmente non ho parlato di un'altra opera che oggi soprattutto acquista un'importanza enorme, che è il suo saggio sulle origini del totalitarismo, che si compone di tre saggi: sul liberismo, sull'imperialismo e sul totalitarismo, in senso sul stalinismo e fascismo. Un'opera, secondo me, la cui parte centrale e importante è il secondo volume, quello sul colonialismo e l'imperialismo, si manifesta anche proprio un gusto per la ricostruzione storica con tutti gli errori che questo testo poteva contenere, ma soprattutto che identifica perfettamente, secondo me, uno dei problemi centrali nella cultura politica contemporanea, centrali un po' emarginati, che è il rapporto tra l'Occidente e il resto del mondo. Alcune delle figure analizzate, Arendt lavorava, non era una storica a senso stretto, quindi non lavorava sui libri, non tanto sui documenti, però alcuni dei problemi delle figure che ha analizzato hanno acquistato poi un'enorme importanza. Penso a tutte le riflessioni sulla crisi dell'impero ottomano e sul mondo e sulle stateless persons, cioè quindi sugli immigrati, fondamentalmente sui profughi. Oggi chiunque si occupi, e allora il mio lato oscuro sociologico ha a che fare spesso con queste cose, chi si occupa di questi argomenti sa benissimo che questo saggio, questa parte delle origini di Hannah Arendt è fondamentale, si parte sempre da lì per cercare di venire a capo di questa contraddizione straordinaria per cui nel mondo moderno tutto comunica, le merci, la finanza eccetera, ma si continuano a erigere muri, barriere, confini al movimento delle persone. E non ho parlato di un altro aspetto che io ritengo estremamente interessante, che è Arendt come critica letteraria. I saggi sulla poesia di Arendt sono straordinari, da quelli su Bloch, su Brecht eccetera, ma questo ci porterebbe, perché si capiva proprio come questo uscire dalla tradizione, anche un po' dall'ingessatura, diciamo così, del linguaggio metafisico, le permettesse di cogliere, a partire dagli stessi problemi, però le permettesse di cogliere l'essenza della poesia. Ho in mente questo saggio bellissimo che è Bertolt Brecht, poeta contro la sua volontà, in cui lei dice, nonostante i tributi che il Brecht stalinista, poi ha cambiato idea, il tributo pagato da Brecht, resta comunque, era più forte di lui essere un poeta che non essere un difensore dell'ordine sovietico. Insomma, la sua opera è disorganica, secondo me, volutamente, soprattutto nelle opere teoriche, è un'opera che non si fa racchiudere in schemi, eccetera, ma ancora oggi offre una quantità di spunti enormi. Però se dovessi, in conclusione, penso di avere chiuso con un certo tempismo, ci tengo molto. Se c'è un punto, ripeto, in cui io identifico proprio l'interesse di Arendt, da cui poi nascono tutte le altre cose, è esattamente quello della posizione dell'uomo nel mondo come dimensione politica, dimensione dell'apparire, del mostrarsi. Credo che da questo punto di vista forse questo è uno degli aspetti che andrebbero più indagati e che sarebbero anche molto utili, diciamo, nelle scienze sociali, in antropologia eccetera, perché libererebbero forse un po' questi saperi dal loro comportamentismo e così via. Per il momento finito. Grazie. E ricordo poi che un altro pezzo per cui appunto l'Arendt è importante è la storia. Non proprio spero che ci torneremo. Esatto, adesso la parola a Elena Pulcini. Grazie. Sì, allora, buonasera a tutti. Io sono particolarmente grata ad Alessandro Dallago per aver, come dire, introdotto così bene questo tema, questa autrice e così via, cosa che io non sarei stata in grado di fare perché Hannah Arendt interseca molti dei miei interessi, ma insomma io non sono una particolare esperta e quindi paradossalmente, per fare un paio di premesse, mi trovo qui per la seconda volta a parlare di Hannah Arendt, sperando di non essere troppo ripetitiva, perché magari chi mi ha sentito l'anno scorso, cioè alcuni temi inevitabilmente ritorneranno oggi, però proprio per evitare forse un'eccessiva ripetizione, io ho provato a fare una piccola operazione che secondo me mi si ritorcerà contro, però vi volevo avvertire, e cioè è quella di più che entrare troppo, diciamo, capillarmente nel testo, nel pensiero di Arendt, sono d'accordo con Alessandro che questo è un testo molto impervio, sia per lo stile della scrittura, sia per, come dire, un po' a volte anche proprio la disorganicità, no, dell'argomentazione e così via, non si può renderne conto in modo facile e rapido. Allora, quello che ho provato a fare è appunto dare qualche input, qualche stimolo, stando dentro Arendt ma anche uscendo da Arendt, cioè confrontando alcuni aspetti di Arendt che per me come filosofa sociale sono più rilevanti, sono comunque più degni di nota e così via, più attuali se vogliamo, appunto misurandoli un po' sull'attualità o su alcuni aspetti dell'attualità. Allora, partendo proprio, come dire, dall'ABC, no? Cioè le tre figure che Arendt, che sono già state ovviamente richiamate, no? Le tre figure in cui Arendt sintetizza un po' le tre figure simboliche della modernità, l'homo laborans, l'homo faber e poi come dire, qui non c'è un uomo, cioè ci sono gli uomini, e quindi insomma la dimensione dell'azione. Io penso che si possano fare una serie di osservazioni critiche su tutte e tre, diciamo su tutte e tre queste figure, per come Arendt le analizza. Il contesto, diciamo, complessivo è quello, anche questo è stato detto, di una critica della modernità. Vedremo poi un pochino meglio da quale punto di vista, ma ecco, mi preme magari sottolineare che certamente abbiamo visto il collegamento di Arendt col pensiero ebraico, con la tradizione heideggeriana e così via, ma su questo piano, anche proprio riprendendo il filo di questo concetto che mi è molto caro e che Alessandro valorizzava molto in Arendt, cioè proprio la dimensione della gratuità, ecco, io credo che il pensiero di Arendt si intersechi con altri percorsi di critica della modernità macroscopici, di cui mi limito proprio a fare una lista, ma insomma ci sono forti connessioni interne sia con, non so, la teoria critica francofortese e, diciamo, la critica della ragione strumentale. Ci sono connessioni forti con tutta, diciamo, la critica dell'utilitarismo stile Collège de Sociologie, come dire, pensiero appunto il pensiero francese degli anni 30 più o meno, eccetera, che rivaluta in modo forte tutta la dimensione appunto della gratuità contro la prospettiva appunto della necessità e dell'utile, per usare proprio le parole di Arendt. C'è un nesso con la grande stagione della critica della tecnica, ovviamente, a partire da Heidegger, attraverso Günther Anders, che è già stato richiamato, e attraverso Hans Jonas, uno è stato il marito, ma è stato anche un grande punto di riferimento teorico, e il dialogo con Jonas è andato avanti per tutta la vita, e così via, fino, diciamo, alla prospettiva weberiana, no? Cioè la critica dei processi di razionalizzazione capitalistica. Ecco, qui possiamo subito dire una cosa, che in Arendt non compare, tu mi smentirai se sbaglio, la parola capitalismo. Cioè è uno di quegli autori o di quelle autrici che ha profondamente e totalmente adottato il concetto di modernità, che si è imposto anche, diciamo, nel pensiero contemporaneo nella seconda metà del Novecento, a partire, diciamo, poi dalla crisi, dalla critica o dall'abbandono o dalla rimozione, se vogliamo, di tutta la prospettiva marxista. Progressivamente c'è stato un abbandono del concetto di capitalismo e della critica del capitalismo, ed è stato sempre più adottato, mea culpa anche per sociale, mi ci metto in mezzo, il concetto di modernità. Adesso noi sappiamo benissimo che le due cose assolutamente non si equivalgono. Quindi ecco, lo spettro di possibili legami con altre grandi tradizioni di critica della modernità e o del capitalismo è sarebbe molto interessante, molto più di quanto non sia stato fatto fin qui, molto più di quanto non sia stato fatto fin qui rispetto ad Hannah Arendt. Sicuramente io vorrei partire, come già mi pare l'anno scorso, vorrei partire per capire un po' meglio di che cosa ci parla in Vita Attiva, da un concetto, anche questo a mio avviso non sufficientemente frequentato, non ancora sufficientemente illuminato, che però è un concetto assolutamente centrale in Hannah Arendt. Anche se appunto ancora, secondo me, cioè ancora tutto un po' da capire meglio, da riempire, da definire, che è il concetto di mondo, no? Per vedere un po' come, rispetto al concetto di mondo, poi quelle tre figure dell'homo laborans, dell'homo faber e della dimensione dell'azione in qualche modo si rapportano. Beh, qui appunto viene immediatamente fuori il cuore appunto del pensiero di Arendt, no? Cioè il mondo è in primo luogo il pubblico, la sfera pubblica, vita attiva, lei la definisce come la vita che si fa in pubblico, come poi è stato detto abbondantemente. Dunque ci sono subito però appunto due definizioni di pubblico, una che insiste sull'aspetto su cui Alessandro ha messo fortemente l'accento, che è l'idea dell'apparire. Io preferisco apparire ad apparenza, perché apparenza mi dà delle suggestioni rossoiane, dove assume una connotazione invece fortemente negativa. Cioè, sia chiaro, per Arendt apparire non ha niente a che fare con tutta la tradizione da Rousseau a Debord, no? Che poi confluisce nella società dello spettacolo. Per lei apparire è l'apparenza, il comparire, no? Semmai, ecco, ci sono poi legami con una certa filosofia francese contemporanea, tipo Jean-Luc Nancy, che secondo me ha saccheggiato Hannah Arendt e non ne parla abbastanza, ma questo è un altro discorso. Allora, pubblico è ciò che appare, e mi fa molto, molto piacere che Alessandro abbia insistito proprio su questa matrice, perché io stessa mi sono interrogata a lungo, no, sull'origine di questa di questo concetto, e certo sì, è proprio quella greca, è proprio l'etica eroico-aristocratica, è l'etica dell'onore, del coraggio, no, della spesa di sé, quindi della gratuità e così via. E dunque per toglierlo un po', no, dall'evanescenza di questo, è un po' evanescente questo concetto, se non gli diamo subito una densità concettuale forte. Se lo leghiamo a questa tradizione, a queste dimensioni, secondo me immediatamente si chiarisce meglio. E naturalmente tutto questo si oppone, come ben sappiamo, il pensiero femminista su questo ha detto molto, tra parentesi è stato accennato, ma il pensiero femminista è stato uno di quelli che più fortemente ha rivalutato un'autrice che poi secondo me col femminismo c'entra molto poco, ma alcuni dei suoi concetti sono invece molto interessanti anche per la prospettiva femminista. Allora, pubblico ha, il concetto di pubblico ha in qualche modo un contraltare, che è quello di privato, che è quello di privato, che in Arendt ottiene una forte valutazione, perché lei dice il privato non è più come nella polis greca oggi il regno della deprivazione, ma è qualcosa, diciamo, che si costruisce in positivo, ma che è profondamente da tenere profondamente distinta dal pubblico. Quindi se nel privato, per esempio, abitano e vigono gli affetti, le passioni, i sentimenti e così via, tutto questo deve rimanere lì, non deve uscire nella sfera pubblica. Poi ovviamente tornerò un attimino più tardi su questo, ma l'altra accezione di pubblico è quella di comune, di mondo, e di pubblico quindi di mondo, è l'essere in comune, che è una parola fortemente presente in tutto il pensiero di Arendt, e che, ci sono qui espressioni celebri, no? Il mondo come infra, come in between, il mondo come ciò che si costituisce a partire dalla distanza tra gli uomini, la metafora del tavolo che ci separa, perché altrimenti, come dice Arendt, ci cadremmo addosso. Quindi un comune che però non è comunità nel senso, come dire, tradizionale del termine, poi dirò due parole su questo. In tutto questo voglio dire, come si lega questo? Allora, questo è ciò che, secondo Arendt, dobbiamo in qualche modo ricostruire. Questo è ciò, il mondo, il pubblico, il mondo inteso sia come dimensione della sfera pubblica, sia come essere in comune, e quindi reciprocità, relazionalità e così via, è ciò che stiamo perdendo, è ciò che abbiamo perso, ed è un problema immenso, perché tutto questo è il nucleo poi della politica, o di quello che Arendt intende per politica. E perché l'abbiamo perso? Beh, appunto, in primo luogo perché le prime due dimensioni della vita attiva, cioè l'homo laborans e l'homo faber, hanno avuto un'assoluta predominanza nella modernità. Hanno, diciamo, offuscato e finito per svalorizzare appunto la dimensione comune, la dimensione politica, di cui che è già stata, diciamo, ben definita. Allora, dove appunto quindi la dimensione dell'azione, quella che lei chiama la dimensione dell'azione e o del discorso, che è, diciamo subito, anche questo è stato detto, ma è, come dire, tento in qualche modo di ricostruire un filo per poi fare alcune osservazioni da un lato critiche, dall'altro invece di diciamo dilatazione di certi concetti. L'ultima parola chiave, diciamo, che ci consente di definire il concetto di mondo è quella ovviamente di pluralità, apparire insieme nella distinzione, essere accomunati nella distinzione. Allora, dicevo, questo è ciò che abbiamo perso, questo è ciò che abbiamo perso per via appunto della vittoria di queste due figure, che sono due figure fondamentalmente dell'isolamento, della solitudine, l'homo laborans, il lavoratore, e l'homo faber, colui che produce, sono due figure della solitudine. E adesso vediamo un attimo, e sono, diciamo, il dirigersi, diciamo, l'egemonia di queste due figure ha provocato la perdita del mondo. Questa è una parola che è comune ad Arendt, ad Anders, a Jonas, un po' a tutta la grande filosofia tedesca di quel momento, che poi ha varie possibili declinazioni e dimensioni. C'è perdita del mondo a causa della società di massa, c'è perdita del mondo nelle società totalitarie, c'è perdita del mondo nelle dimensioni comunitarie, laddove la comunità abolisce la distanza, l'infra, l'in-between, e in qualche modo produce fusionalità. E insomma, tutto questo ha provocato per l'appunto la rimozione, la perdita, insomma, della dimensione della prassi, dell'azione, del discorso, eccetera. Perché? Io ricordo anche l'anno scorso, come dire, mi premeva mettere un attimo di più l'accento su questo. Perché questo è successo? Appunto, qui secondo me Arendt dà una risposta più interessante di quanto ci si potrebbe, diciamo, di quanto si sia riflettuto di nuovo su questo aspetto. Perché lei ci dice l'azione è una dimensione rischiosa, no? È una dimensione inquieta, è una dimensione conflittuale, e quindi, diciamo, nella incapacità di sopportare tutto questo, di reggere la fragilità dell'azione, la precarietà dell'azione, la conflittualità dell'azione, c'è stata una sorta di fuga verso la solitudine, che significa fuga verso la dimensione più, come possiamo dire, tristemente, userei questo termine un po' forte, biologica, dell'umano, della condizione umana. Non sto ad entrare in tutta questa faccenda natura, condizione, detto proprio in tre parole perché Arendt sceglie di parlare di condizione e non di natura. Beh, ancora una volta, perché si scrive nella grande antropologia tedesca del Novecento, quindi Anders, Jonas, Max Scheler, Gehlen e così via, dove il punto di fondo è: non esiste una natura umana, o almeno possiamo parlare di natura umana come qualcosa che non ha un'essenza, ma che è caratterizzata essenzialmente dall'apertura, e quindi dal rischio, e quindi, diciamo, come dire, è preferibile parlare di condizione piuttosto che di natura. Chiudo l'inciso e ritorno appunto su questo aspetto. L'azione è una dimensione problematica. L'azione, quindi poi la politica, è una dimensione problematica. È come se Arendt ci dicesse che gli esseri umani non sono capaci di agire insieme, o perlomeno hanno tutta una serie di problemi nell'agire insieme, e quindi appunto la sfera qui è, dice, marcatamente aristotelica, alla sfera della libertà, che è quella dell'apparire, che è quella dell'agire, che è quella della prassi e della politica. Su tutto questo invece è prevalso, diciamo, l'egemonia della sfera della necessità, della riproduzione della vita. Il concetto di vita in Arendt assume una connotazione essenzialmente svalutativa. È bios e non è zoè, scusate, e non bios, no? Cioè, dunque è qualcosa che si limita ad una funzione puramente biologica, puramente riproduttiva, a scapito della relazionalità, per l'appunto, no? Arendt dice: la vita attiva, la sfera dell'azione, è quella in cui gli uomini, gli esseri umani, si rapportano tra loro senza bisogno di una mediazione materiale. Questa credo che sia una delle definizioni più efficaci su questo, diciamo, per capire un po' quasi tutto il suo pensiero. E dunque quello che le interessa, appunto, lei non aderirebbe mai ad una valorizzazione dell'individuo, Alessandro richiamava anche questo aspetto, ma parla piuttosto appunto di singolarità, che è un concetto che poi è stato ripreso anche dalla tradizione francese, appunto da Simondon fino a Nancy, non a caso, perché singolarità è per l'appunto un concetto che sta immediatamente in interazione con pluralità. All'interno, cioè, la pluralità è composta di figure della singolarità che si rapportano tra di loro mantenendo ferma la reciproca distinzione, ma nell'essere accomunati, diciamo, dall'apparire insieme e da questa stessa distinzione. Non sto ad entrare sulla su questo concetto. Secondo me oggi si parla molto di pluralismo. L'anno scorso non a caso c'era diciamo era stato richiesto un po' anche un parallelo con alcuni autori contemporanei come Rawls, come Habermas e così via, insomma gli autori che più hanno tematizzato l'idea di pluralismo. Ecco, io non direi che il concetto arentiano di pluralità è immediatamente paragonabile a quello di pluralismo che noi troviamo in questi autori. Secondo me bisogna costruire delle mediazioni anche abbastanza complesse. Faccio soltanto un riferimento su questo. Sarebbe pensabile, come dire, quando Arendt parla appunto di singolarità del chi, la nostra amica Adriana Cavarero ha molto scritto e riflettuto su questa dimensione del chi, no? Della presenza singolare e così via nell'apparire insieme. Sarebbe possibile che tutto questo includa l'idea di diversità così come la intendiamo oggi? Sarebbe possibile estendere l'idea di pluralità? Cioè, può l'idea arentiana di pluralità contenere l'enorme problema dell'altro come diverso con cui ci confrontiamo oggi in maniera così drammatica? Ecco, secondo me non del tutto, diciamo. Secondo me bisogna introdurre delle mediazioni. Una mediazione importante in questo senso può essere quella che oggi viene definita la teoria del riconoscimento. Cioè, il concetto arentiano di pluralità è un concetto molto interessante, ma secondo me è un concetto in qualche modo statico. È una fotografia. Non ci dà la strategia dinamica del rapportarsi gli uni agli altri e del come rapportarsi gli uni agli altri. Allora, introdurre un concetto come quello di riconoscimento significa introdurre appunto una dimensione dinamica, che vuol dire anche rischiosa, che vuol dire anche conflittuale, che vuol dire insomma tutto quello. Non posso ovviamente sviluppare questo tema, da Honneth in poi c'è una letteratura ormai enorme. Ecco, però mi premeva sottolineare questo aspetto. Io non riesco ad accontentarmi. È stato molto enfatizzato questo concetto di pluralità. Lo trovo molto interessante, ma non riesco oggi ad accontentarmi di questo e ho bisogno, diciamo, di ulteriori innesti. Sorvolo sul, magari ci torno un momento dopo, anzi non lo nomino nemmeno, procedo su qualche altra osservazione critica di Arendt e poi magari metto invece in rilievo quelli che secondo me sono un paio di temi di grandissimo interesse. L'altro punto che mi crea dei problemi è la totale svalutazione della figura dell'homo laborans. Qui si apre, come dire, un abisso, perché tutto questo riguarda il rapporto di Arendt con Marx, col marxismo, con la tradizione marxista e così via. Arendt ci dice: Marx ha fatto fondamentalmente un errore, perché da un lato ha dato troppa importanza al lavoro, dall'altro ha prefigurato una società libera dal lavoro. Allora questo ci mette, no, in un cul-de-sac da cui è molto difficile uscire. Lei sceglie un'altra strada, appunto, lo accennavo prima, lei sceglie la strada di svalutare aristotelicamente, aristocraticamente la dimensione del lavoro, che lega esclusivamente alla dimensione appunto della riproduzione, del consumo e del ritmo biologico della vita, alla dimensione naturale, che c'è una parola che proprio le piace poco, in tutti, sia come sostantivo che come aggettivo, e secondo me come dire, perde una chance clamorosa, che poi tutta la tradizione marxista, con tutti i suoi limiti, possiamo discuterne all'infinito, però in qualche modo ha cercato di valorizzare, cioè la dimensione del lavoro come, non solo come dimensione sociale, e quindi come dimensione nella quale è possibile già la dimensione, la struttura, diciamo, il momento dell'apparire insieme, ma anche come dimensione creativa, come qualcosa che va al di là del puro scopo riproduttivo e della pura sussistenza, no? E appunto riproduzione biologica. Insomma, questo è, io non voglio dire un buco nero, ma sicuramente è un aspetto, e non è, anche questo, non credo, poi non lo so, Alessandro, come, che ne sa più di me, non so cosa ne pensa, ma ho l'impressione che sia un aspetto, diciamo, su cui, perché insomma, diciamoci un po' la verità, dal momento in cui Arendt è stata rivalorizzata, tornata in auge e così via, c'è stata una ricezione abbastanza critica, almeno su certi aspetti, sicuramente, diciamo, sul percorso che va da vita attiva a vita della mente. Un secondo aspetto, ora vado velocemente, anzi dimmi quanto c'ho ancora, così mi regolo. Un secondo aspetto è, sì, ok, è la presenza o l'assenza, o comunque la presenza molto debole, questo Alessandro lo chiariva, di una riflessione sul soggetto. Cioè io sento, come dire, una sorta di inorganicità nel pensiero di Arendt, che pur dandoci degli stimoli straordinariamente interessanti, ogni tanto sembra proprio perdere la carne e il sangue dell'essere nel mondo, per l'appunto, del vivere nel mondo. Veniva definito un pensiero romantico, sì, sono d'accordo, direi addirittura qualcosa di più, insomma un po' aggira tutta una serie di problematiche, e credo che appunto è come se la dimensione del soggetto, Leno questo non arriva a dirlo, ma è come se la dimensione del soggetto fosse di fatto confinata al privato. Il soggetto, l'individuo, appunto, con tutte le sue i suoi sentimenti, le sue passioni, i suoi interessi, le sue aspettative e così via, insomma, con la carne e il sangue della sua corporeità, sembra totalmente relegato al privato e quindi è assente, è quello che per me, questo scusate, proprio è un fatto assolutamente, se volete, personale, ma insomma personale della mia prospettiva di ricerca, il problema delle motivazioni. Da un lato è vero che ci spiega come mai la politica, l'azione, la prassi, appunto, sono in qualche modo passate in secondo ordine, e dall'altro però rinuncia totalmente, anzi ha orrore di andare a trovare, andare un po' a pescare nel torbido, no? Cioè andare a trovare quali sono le motivazioni più profonde di tutto quello di cui lei sta parlando, e direi che alla luce di tutta una serie di aspetti discussi oggi, prendo un esempio, un grosso esempio, Martha Nussbaum, noi possiamo provare a leggere Arendt con Martha Nussbaum, no? Per tentare di smontare appunto, no, questo inorganicismo, questa inorganicità della Arendt e reintrodurre nella sfera pubblica appunto tutto ciò che in qualche modo appartiene appunto alla teoria delle motivazioni, delle passioni, dei sentimenti e così via. Una passione per tutte, la compassione, cioè Arendt la liquida in maniera drastica, no, nel saggio sul totalitarismo e così via, e in generale non ne vuol sapere, insomma, della presenza della dimensione affettiva nella sfera pubblica. Beh, direi che oggi, ma da Nussbaum in là o in qua, dalla teoria dell'empatia, dalla ripresa del filone del sentimentalismo morale, e potrei, cioè, non lo farò perché mi preme troppo e quindi mi limito a citarlo, questo aspetto, ma mi pare che sia fortemente, insomma, da mettere in discussione, legandolo, e quindi cerco di focalizzare velocissimamente un altro punto, legandolo a questa sua forte critica, diciamo, a questa sua rivalutazione del politico attraverso la svalutazione del sociale. Allora, lei è stata chiara, perché il sociale è evidente, se uno legge Arendt, che il sociale è la massificazione, è la società di massa o la società totalitaria, quindi la società di massa. Cioè l'aspetto che lei svaluta del sociale è evidentemente quello, però alla fin fine, cioè, finisce per fare di tutto erba un fascio e finisce per non dare nessuna considerazione a quello che accade nel sociale e alle enormi potenzialità del sociale. Il sociale, lo dico qui con una espressione lapidaria che non sto a spiegare, se volete ci possiamo tornare, è dotato di una normatività intrinseca, di una normatività immanente, senza il quale il cosiddetto miracolo della politica ce lo possiamo anche sognare, diciamo. Se non ripartiamo da lì non se ne fa niente, cioè non possiamo evitare di costruire questa mediazione, e quindi questo vuol dire ripensare il sociale senza, come dire, le pruderie che Arendt dimostra con grande chiarezza. Per finire invece, appunto, quali sono almeno un paio, beh, alcuni li ho già detti, ma insomma un paio di temi di grande attualità secondo me in Arendt. Il primo è, beh, ovviamente la critica della società di massa, la critica del conformismo, la critica dell'omologazione, cioè tutti, che lei tra l'altro prende proprio da Tocqueville, da tutta la tradizione tocquevilliana, ma che dopo Arendt, come dire, sono esplosi, no? E quindi la stessa analisi arendtiana ci è molto utile da questo punto di vista. Penso anche solo al tema della distanza, che poi è stato sviluppato da Richard Sennett, di cui qui abbiamo, diciamo, delle conoscitrici assolute, ma potrei anche citarne altri. Insomma, il problema della massificazione, dell'omologazione, del conformismo e così via, poi voglio dire all'interno di processi di globalizzazione non la finiremo più, diciamo, di mostrare l'importanza di questo aspetto. Ma a me interessa di più valorizzare due aspetti, uno dei quali, di nuovo, secondo me dovrebbe emergere un po' più potentemente, perché io ho detto finora, ed è assolutamente vero ed è assolutamente giusto, che la svalutazione della dimensione dell'homo laborans, del regno della necessità, della vita e così via, è sicuramente un concetto centrale in Arendt, ma ci sono anche uscite già in Vita attiva, che poi lei riprende con forza in Che cos'è la politica, e che dimostrano anche il suo forte legame con Günther Anders e con Hans Jonas. Arendt era perfettamente consapevole della grande trasformazione che, a partire dalla seconda metà del Novecento, insomma da Hiroshima in poi, si consuma su questo piano, no? Dove la vita, proprio la conservazione della vita, come dice Günther Anders, diventa un tema di grandissima importanza. Di grandissima importanza. Allora noi dobbiamo, ripartendo se vogliamo anche da Arendt, oggi dobbiamo ripensare il concetto di vita a partire dalle sue trasformazioni di fronte alle sfide globali, di fronte, diciamo, al pericolo che la vita oggi subisce. E ci sono passi, ma guardate, ve ne leggo uno: ciò che oggi balza in primo piano nella nostra mente è naturalmente il potere umano enormemente accresciuto di distruzione, il fatto che siamo in grado di distruggere tutta la vita organica sulla Terra, e un giorno saremo probabilmente in grado di distruggere la Terra stessa, eccetera, eccetera, e ce ne sono altre. Entra qui la figura di la ibris, diciamo, prometeica, di cui appunto tutto il pensiero contemporaneo ad Arendt, la stessa filosofia della tecnica, mette fortemente in rilievo per spiegare il perché di alcune trasformazioni in senso distruttivo, in senso negativo della contemporaneità. E quindi, insomma, lei stessa ci dà gli spunti per ripensare quello stesso concetto che, in parte svalutato in alcuni aspetti della sua opera, viene poi recuperato in altri momenti della sua opera in questa diversa luce, che è una luce di grandissima importanza, perché questo Arendt lo dice anche nelle prime pagine di Vita attiva, questa sua, diciamo, adesione ad un thinking, ad un pensiero in assoluta presa diretta con la realtà contemporanea, in presa diretta con l'attualità, che non è una cosa così ovvia nel pensiero filosofico, questo penso che ve lo possiamo garantire, e credo che sia sicuramente uno dei suoi aspetti più importanti e più interessanti. Per finire, davvero, c'è un tema che lei nomina in poche righe, insieme al tema del perdono, che forse è più noto, quando Arendt in Vita attiva a un certo punto parla del perdono come ciò che consente la reversibilità del male, un tema enorme, immenso, che ci ricollega al tema della gratuità. Non voglio entrare in questo tema, però non posso richiamarlo, perché sono le stesse righe in cui Arendt propone un'altra parola che invece io ritengo molto importante, che è il tema della promessa. Ed è un tema che possiamo davvero un po' dilatare, possiamo un po' declinare, appunto, di nuovo rispetto al problema, diciamo, delle sfide globali. E cioè il tema della promessa, vi leggo proprio due righe: rimedio all'imprevedibilità, alla caotica incertezza del futuro, è la facoltà di fare e mantenere delle promesse. Il vincolarsi con delle promesse serve a gettare nell'oceano dell'incertezza qual è il futuro per definizione, isole di sicurezza senza le quali nemmeno la continuità, per non parlare di una durata di qualsiasi genere, sarebbe possibile nelle relazioni tra gli uomini e così via. Allora, io penso che in un momento in cui si pone un problema, e c'è una letteratura enorme su questo, che è il problema della cosiddetta giustizia intergenerazionale, che non riguarda soltanto il rapporto, diciamo, di noi seniors con i nostri diretti figli e nipoti, no? Quindi tutto il problema del lavoro, delle certezze che in qualche modo lasciamo o non lasciamo alle immediate generazioni, ma riguarda anche un tema che, come dire, mi sta a cuore ormai da diverso tempo, che è proprio quello delle, lei nomina anche questo concetto in un altro punto del libro, delle generazioni future. Il problema delle generazioni future, come lo risolviamo? Mi limito proprio a tre parole. Tutti i grandi paradigmi della giustizia, dal contrattualismo all'utilitarismo e così via, si trovano in grande difficoltà rispetto a questo problema. Come facciamo, perché e come facciamo, possiamo fare a prendere degli impegni rispetto alle generazioni future? È un tema in cui, ripeto, si arenano i più grandi paradigmi contemporanei, moderni e contemporanei della giustizia, e però, mi dispiace, ma è un tema ineludibile, anche se stenta, credo, ad entrare, diciamo, almeno nella riflessione filosofica. Vi faccio solo un riferimento: un autore tedesco, si chiama Birnbacher, io stessa non lo conoscevo prima, per esempio parla di una strategia del self-binding, no? Cioè dell'auto self-binding, dell'autovincolarsi, no? Che è un po', diciamo, come Ulisse con le sirene, se vogliamo, no? Ecco, che io vedo molto possibile legare al tema arendtiano della promessa, no? Perché una promessa vera è per l'appunto un vincolo, no? Cioè è una presa di impegno molto forte, eh? Noi lo vediamo, diciamo, con i nostri figli piccoli. Se facciamo una promessa, cioè non mantenere una promessa con un bambino ha delle conseguenze psicologiche devastanti. Il problema è che invece, diciamo, noi oggi di promesse ne facciamo tante, ma non ne manteniamo quasi nessuna, e soprattutto questo naturalmente vale per quella dimensione che Arendt vorrebbe rinnovare, rivalorizzare, rifondare e così via, che è la politica, no? Cioè, se la politica, e concludo, fosse capace di mantenere qualche promessa e di impegnarsi, no? Verso il futuro con delle promesse che non possono che essere, certo, in primo luogo espletate sul piano etico, insomma, ecco. Probabilmente, non dico che tornerebbe che potrebbe essere il miracolo che Arendt si aspettava, ma qualcosa di meglio rispetto a quello di cui disponiamo attualmente. Grazie. Faccio prima una prima della pausa una piccola riflessione. No, non la riflessione riguarda la perdita di un'amica cara e collaboratrice anche della fondazione, cioè Anna Rossi Doria. Ho pensato che fosse giusto farlo qui, questo ricordo, brevemente, perché Anna Rossi Doria ha frequentato molto, come storica e come femminista, Anna Arendt, e perché si capisce da quello che ci è stato appunto detto da questi splendidi relatori, tra l'altro, unendo nella sua passione di ricerca due oggetti di studio, che sono quelli di Anna Arendt, cioè l'ebraismo e la politica, gli ebrei e la politica. Gli ebrei più che l'ebraismo, ma naturalmente dietro gli ebrei, il genocidio degli ebrei, c'era ciò che rappresentavano gli ebrei. E le due passioni si uniscono, insomma, perché anche appunto per il riscatto degli ebrei è sempre la dimensione politica che conta, è l'accesso alla politica che li può salvare e che non li ha salvati sempre, appunto, tenendo, quando sono stati tenuti al di fuori. Ecco, Anna ha lavorato soprattutto in alcuni scritti che sono raccolti in un bellissimo libro che ha un bellissimo titolo, Dare forma al silenzio. Ecco, il silenzio delle donne e il silenzio degli ebrei. A me sembra che, appunto, in quanto è stato detto oggi, insomma, a proposito appunto di perdenti e di figure di perdenti, Rachel Farnagel era appunto ovviamente uno dei suoi libri, insomma, no, studiati, i vari saggi su, appunto, sulla letteratura, che era un'altra sua passione, insomma, e sui letterati. Ecco, è stata collaboratrice qui alla Fondazione Basso, è stata una delle fondatrici di Memoria, la prima rivista di studi di donne, per le donne, di femminismo in Italia, e spero che avremo occasione di riprendere le sue riflessioni in qualche, appunto, anche sede apposita, ma credo che fosse giusto farlo qui, in una scuola di politica, perché è stata anche a un certo punto anche consigliera comunale, perché credeva moltissimo nella politica, nel prendere la parola, e ha vissuto il femminismo come una fase molto positiva proprio per la presa di parola da parte delle donne in pubblico. Questa dimensione, appunto, del pubblico, della presa di parola in pubblico, è fondamentale, e credo che oggi, appunto, si senta questo, perché le donne prendono la parola, ma su questioni private, ben poco sul pubblico, ben poco in politica, diciamo, con un'assunzione politica forte, ecco, a cui Anna credeva moltissimo. E quindi volevo, appunto, intanto dire questo, poi entrare. Sì, è morta un mese fa. Già, sì. 78. Ah, scusa, allora Elena, scusami, adesso facciamo una di 5 minuti e poi, okay. E poi ricominciamo, va bene.